voglio stare con te. Abbracciato stasera, mentre una chiude luna, a mucione ne spia, voglio stare con te. Da stulipo di sciumi, unina e sciuvagioni, questa siti da muri. Ah, quanto è bella sta luna, chi una giornata lia, e poi muori con me. Voglio stare con te, carcerato da muri, abbracciato in ton sciumi, dimenticati per chi non c'è pace per me. Da sta terra di sole, da sta terra di mari, io non saccio natari. Gli apro l'occhio e non c'è, non speraggio di luci, voglio stare con te, ma non sento a tua voce. Ah, com'è russa sta luna, pare un fuoco di pietra, ma se studia e poi va. Voglio stare con te, carcerato da muri, abbracciato un ton sciumi, di peccati picchi, non c'è pace per me. Da sta terra di sole, da sta terra di mari, io non saccio natari. Voglio stare con te.